Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore e penso lo sappiate tutti, da mezzanotte di venerdì la legge impone il silenzio elettorale, quindi ovviamente come potete immaginare sui giornali ci sono molti titoli che riguardano le elezioni che si svolgono oggi e domani. I seggi si sono appena aperti alle 7 in tutta Italia, quindi vi leggerò i titoli senza assolutamente scendere nel merito delle questioni. Il Sole 24 Ore tra l'altro ha un titolo decisamente staccato dalle elezioni, la questione però ci riguarda tutti così come le elezioni ed è quella delle pensioni. Pensioni per i lavori gravosi a 62 anni, poi a 64 con penalità. Sapete che si sta discutendo dell'ennesima riforma delle pensioni, c'è la cosiddetta quota 100 ma anche tante altre norme che potrebbero essere modificate. La proposta sul tavolo governo sindacati dal 25 settembre. Allo studio anche l'idea di trasferire il TFR, il trattamento di fine rapporto, ai fondi integrativi con il metodo del silenzio assenso, dubbi del tesoro sui costi. La foto in prima pagina è in realtà legata a un articolo che poi trovate a pagina 8 di Antonella Scotti, interessantissimo, a proposito di cambiamento del clima. Il clima risveglia il sottosuolo siberiano, gli effetti dello scioglimento del permafrost. Il cratere e la foto è quella di un cratere formato nella penisola di Yamal nel 2014 nel grande nord della Russia. E poi un approfondimento sulle criptovalute, allarme criminale. L'anonimato facilita le mafie. Trovate poi tutto a pagina 7. E vi dicevo, visto che appunto la questione delle pensioni magari non ci riguarda tutti adesso, ma in qualche modo ci riguarda perché chi non è in pensione sta pagando le pensioni di chi già lo è, quindi di fatto ci riguarda tutti. E l'approfondimento lo trovate a pagina 3. Pensioni, ipotesi doppia uscita, Davide Colombo e Marco Rogari appunto fanno il punto su quello che si sa adesso di questo poi proposta che, come abbiamo letto, verrà esaminata nel dettaglio a partire dal 25 settembre. Corriere della Sera, voto si teme una bassa affluenza. La foto è uno stadio di quelli che siamo abituati a vedere da quando sono stati riaperti ma senza pubblico, perché l'annuncio di ieri, lo avete sentito, è stadi riaperti a 1000 spettatori. La prima cosa che viene in mente naturalmente, perché proprio questa settimana a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizio, abbiamo dato la notizia che anche in Germania si riparte ma con una percentuale che può essere del 20, del 30%, questa cifra 1000 naturalmente ha un significato diverso, perché gli stadi hanno una capienza diversa e probabilmente una percentuale ha più senso. In ogni caso, questo è quello che ha deciso ieri il governo, perché la decisione è stata annunciata dal ministro dello sport Spadafora, e tra l'altro è una misura che riguarda solo la Serie A, e anche qui naturalmente ci sono le proteste delle altre serie di calcio. In prima pagina sul Corriere della Sera anche, lo fanno anche altri giornali, la scomparsa di Ruth Bader Ginsburg, che viene addirittura già familiarmente chiamata, così come John Fitzgerald Kennedy era diventato JFK, lei è RBG, aveva 87 anni, aveva avuto un tumore, poi era rientrata al lavoro e si è spenta, era giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, che sono nomine, quella della Corte Suprema, a vita. Quindi lei era stata nominata nel 1993 da Bill Clinton e ora, perché quel posto deve essere colmato, in generale è molto complicato il sistema, comunque in generale quando sia il Senato sia la Casa Bianca sono controllati dallo stesso partito, in questo caso il Partito Repubblicano, ci deve essere una maggior cura nella scelta dei giudici. capo dei deputati del Senato ha già annunciato in realtà proprio a poche ore dalla morte di Ruth Bader Ginsburg che si provvederà, che il presidente americano Donald Trump farà avere al più presto una lista delle possibili scelte, che poi devono essere questi candidati uno per uno ascoltati in Senato. Tutto questo ve lo sto raccontando perché mancano, ormai si vota il 3 di novembre, quindi negli Stati Uniti in generale quando c'è questo doppio controllo e quando i tempi sono così brevi, era capitato con Obama nel 2016, si rimanda la nomina dopo le elezioni e c'è un grande punto interrogativo se sarà questa la scelta o no. In tema di elezioni, l'unica cosa che vi segnalo del Corriere della Sera è la pagina 3, dove c'è uno schema che spiega quali sono le misure di sicurezza, i protocolli, naturalmente per prevenire i contagi, che tutti i seggi dovranno osservare oggi e anche domani. Naturalmente si vota fino alle 3 di domani. Gel, corsie preferenziali e obbligo di mascherina, tutte le misure ai seggi. La Repubblica, virus, emergenza ai seggi, il tema è quello degli scrutatori e dei presidenti di seggi, ne mancano, pensate, rinuncia il 50% di presidenti e scrutatori, reclutati, impiegati comunali, vigili e volontari della protezione civile. E poi, richiamato in prima pagina, anche un approfondimento che poi trovate all'interno, ecco il piano von der Leyen, redistribuzione obbligatoria. Sapete che il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che si pensa proprio a sostituire completamente il trattato di Dublino con nuove regole per la redistribuzione dei migranti. Sapete che il trattato di Dublino prevede che siano i paesi in cui i migranti sbarcano a dover accoglierli. Ora si pensa a una redistribuzione completamente diversa, vedremo appunto, perché se ne deve ancora discutere nei dettagli. La foto della Repubblica è simile a quella del Corriere, la Serie A ci prova, in 1000 allo stadio. Con Repubblica, come ogni domenica in edicola all'Espresso, copertina dedicata a Trump e Putin, gli affari segreti. Secondo l'inchiesta dell'Espresso, uomini vicinissimi al presidente americano, oligarchi russi legati al Cremlino, imprenditori e banchieri, tutti coinvolti in trasferimenti sospetti di miliardi di dollari. Soldi che, sempre secondo l'inchiesta dell'Espresso, arrivano anche in Italia. La Stampa, l'Italia alle urne con l'incubo Covid, qui però le foto sono diverse, sono due, una viene dagli Stati Uniti, le mani di Trump sulla Corte Suprema, perché appunto il tema è che la nomina dei giudici della Corte Suprema spetta al presidente, tutti si pensano che questa lista di nomine, che questa lista di candidati che verrà presentata dal presidente Trump, naturalmente sarà una lista di giudici molto conservatori. E poi l'altra foto invece ci riporta in Bielorussia, questione che la maggior parte dei giornali, degli organi di stampa, dei media in generale si sono dimenticati, ma in realtà in Bielorussia continuano le proteste. Il pugno di Lukashenko contro le donne, e la foto è quella di due poliziotti bielorussi che portano via una donna durante l'ennesima marcia che si è tenuta a Minsk. Il Messaggero, alla faccia del silenzio elettorale potremmo dire, apre su un'intervista al viceministro Cancelleri, viceministro dei trasporti, e il virgolettato è: grandi opere come a Genova, commissari anche per Roma. La foto in questo caso è diversa perché ricorre l'anniversario della celebre breccia di Porta Pia. La proposta, il Messaggero fa, che è il quotidiano di Roma per eccellenza, fa una proposta che è quella di ripristinare la data sul calendario. Festa dimenticata, festa da ripristinare, scrive Mario Aiello. Quale migliore occasione dei 150 anni dalla breccia di Porta Pia per celebrare di nuovo questa festività laica? E c'è poi un approfondimento alle pagine 4 e 5. Il Giorno si concentra sul vaccino anti-influenzale. Sapete che il consiglio della maggior parte dei medici è di fare tutti il vaccino anti-influenzale. In generale non c'è obbligo, ma comunque è fortemente consigliato a tutte le categorie a rischio e alle persone di età avanzata. Da quest'anno invece il consiglio è che lo si faccia a tutti per due motivi. Primo, perché se non si contrae l'influenza, quando si hanno dei sintomi che possono essere confusi con l'influenza, se si è vaccinati quei sintomi possono subito essere esaminati come sintomi di Covid. E poi perché i vaccini, dicono la maggior parte degli immunologi, comunque attivano il sistema immunitario e lo rendono appunto più preparato a aggressioni esterne come quelle del coronavirus. Ci sono alcuni medici, non tutti, che consigliano anche il vaccino antipneumococco, cioè con tutti quei batteri che causano invece la polmonite, ma importante è quello influenzale. E adesso il giorno dice: influenza, solo 13 vaccini a farmacia. La denuncia di Federpharma, l'associazione che riunisce i maggiori produttori di farmaci: il governo si è accaparrato 17 milioni di dosi per le categorie a rischio, ma tutti gli altri aumenta. E poi un aggiornamento sul bilancio di ieri del Covid: aumentano i morti, contagi in calo. E poi anche questa notizia che trovate anche su altri giornali, questo allarme lanciato dai pediatri, il giorno parla in realtà di rivolta: senza tampone non faremo i certificati per il rientro a scuola. Il giornale: occhio agli imbroglioni, trucchi e bugie alle urne, con una disfatta alle regionali, Conte rischia la poltrona, referendum e voto disgiunto sono una truffa per coprire il flop. Libero: il capo dei giudici, la gente ci detesta. Sapete che ieri è stata la giornata dell'espulsione di Palamara sotto inchiesta per vari tipi di malversazioni e anche per corruzione a Perugia, quindi intanto è stato espulso dall'associazione magistrati, e il capo dell'associazione magistrati, Luca Poniz, ha detto: abbiamo perso credibilità, ecco 10 cose che potrebbe fare però non fa per recuperarla, nell'articolo di Pietro Senaldi, con direttore di Libero. La Verità apre su un'intervista che Maria Giovanna Maglie ha fatto a Monsignor Vincenzo Paglia, il consigliere politico del Papa, due punti: Salvini non è l'uomo nero. L'intervista poi la trovate all'interno, magari la vedremo anche nel dettaglio. Vi leggo ancora le ultime tre prime pagine che avevo da segnalarvi. Il Fatto Quotidiano: sì, sapete che il Fatto Quotidiano, con il suo direttore Marco Travaglio, ma anche con altri giornalisti del giornale, hanno fatto questo endorsement per il sì, da qui il titolo. E invece Avvenire: un voto che conta, oggi e domani urne aperte per il referendum sul taglio dei parlamentari per 7 regioni e 962 comuni, la prima volta ai seggi con le mascherine. E il Manifesto: regioni e sentimento, quindi naturalmente sì, il pensiero corre a uno dei romanzi più famosi di Jane Austen, che si chiamava Ragione e sentimento. Urne aperte per la doppia sfida elettorale, 7 le ragioni al voto, li frettori sulla Toscana, dove la Lega tenta di strappare al PD la regione rossa. E noi invece ci fermiamo un attimo, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. In realtà faccio una piccola incursione sulle pagine del Financial Times Weekend, perché l'apertura era sulle dimissioni dell'amministratore legato di uno dei più grandi gruppi minerari, accusato di aver guidato l'azienda operazioni sbagliate in Amazzonia, che hanno danneggiato la popolazione e l'ambiente. Ma l'articolo che ho trovato interessante riguarda le preoccupazioni degli americani sul possibile vaccino. Sapete che ne abbiamo parlato anche a Effetto Mondo: il numero uno del CDC, il Center for Diseases Control and Prevention, ha detto che una vaccinazione di massa potrebbe arrivare soltanto nel secondo trimestre del 2021. Il presidente Trump ha insistito che invece già alla fine di ottobre potrebbe esserci un vaccino, e questo sondaggio riportato dalle pagine di Financial Times dà conto del fatto che circa il 50% degli elettori americani sono, il 30%, molto preoccupati del fatto che il vaccino potrebbe essere accelerato e quindi approvato per pressioni politiche. Si arriva al 50% se ci si mette anche la percentuale di un po' preoccupati. Una percentuale che è molto, quelli molto preoccupati è più alta nei democratici rispetto ai repubblicani, ma che comunque, insomma, è un dato di cui tenere conto ora che si parla appunto di un iter accelerato, non necessariamente per pressioni politiche, dell'approvazione del vaccino e quindi della messa a disposizione del vaccino su larga scala. Ma torniamo al Sole 24 Ore a proposito di Covid. Un incontro ad Assisi, di cui racconta Carlo Marroni a pagina 5 del Sole 24 Ore, con l'amministratore delegato dell'ENI Descalzi, che dice: mercati e ambiente dopo il Covid nulla sarà più come prima, e nel caso dell'ENI sarà decarbonizzata tra 5 anni. E poi anche un intervento sul Recovery Fund, che potrebbe essere l'occasione per colmare i ritardi nel digitale. Vi dicevo in prima pagina l'inchiesta di Valerio Vallefuoco sulle criptovalute. L'anonimato agevola il rischio criminalità. Un dossier spiega che c'è un allarme internazionale sul moltiplicarsi della tipologia di operazioni che utilizzano le monete digitali o criptovalute per schermare i proventi ottenuti da varie fattispecie di reato, dall'evasione fiscale al traffico di droga. Scusate, l'inchiesta di Antonella Scott sugli effetti del riscaldamento globale sulla Siberia, pagina 8 del Sole 24 Ore, crateri, gas, bombe di ghiaccio, il clima risveglia il sottosuolo della tundra siberiana. Poi una bella intervista di Roberto Iotti al presidente del Consorzio per la tutela dei vini di Franciacorta, Silvano Brescianini, la trovate a pagina 11 del Sole 24 Ore. Molto interessante secondo me il virgolettato, perché si sa, le imprese italiane hanno, parliamo di medie ma possiamo tranquillamente dirlo, hanno una vocazione all'internazionalizzazione, e Silvano Brescianin dice: ogni volta che vai sui mercati esteri impari qualcosa di nuovo. Può sembrare un'affermazione troppo semplice, ma è proprio così, cioè noi dobbiamo renderci conto che qualsiasi paese, qui in questo caso in tema di abitudini enologiche, possiamo dire così, ma sempre ci sono talmente tante differenze culturali che si sono stratificate nel tempo, che appunto ogni volta che si cerca di vendere un prodotto all'estero bisogna tener conto appunto di tutte queste differenze e, se possibile, imparare. Nella pagina consueta della domenica Sport e Business del Sole 24 Ore, Marcello Frisone ci racconta Conte & Co. Conte, naturalmente, in questo caso non il presidente del Consiglio, ma Antonio Conte, allenatore dell'Inter, un decalogo antitruffa per gli sportivi. Nella pianificazione finanziaria vanno considerati pure gli aspetti previdenziali, assicurativi, immobiliari e successori, perché anche i calciatori, naturalmente, anzi spesso gli accade prima degli altri, interrompono la loro attività professionale e devono pensare a un futuro, e anche quello, naturalmente, il futuro pensionistico, per così dire. Nella sezione Lifestyle, che esce ogni domenica con il Sole 24 Ore, vi segnalo la mezza pagina di Marco Morino sul turismo ferroviario. Le bellezze d'Italia rivivono in viaggio su un particolare tipo di treno, che è quello d'epoca. Tornano gli appuntamenti alla scoperta di territori e tesori del nostro paese, tra cibo, arte e cultura. Dal Corriere della Sera, due pagine di approfondimento sulla questione della riapertura al pubblico degli stadi, anche se con questa quota di 1000 spettatori, pagine 12 e 13, con un'intervista al ministro dello sport Spadafora: nessun liberi tutti, presto le regole per gli altri sport. Il Corriere della Sera spiega che è stato decisivo il vertice tra governatori e ministri. Questa riapertura parte dal 7 ottobre, sarà progressiva e riguarderà anche le discipline al chiuso. E poi l'approfondimento, vi dicevo, sulla scomparsa di Ruth Ginsburg. Corte Suprema, addio giudice Ginsburg, ora Trump può cambiare l'America. Questa è la lettura che fa Massimo Gaggi. E un approfondimento interessante di Francesco Battistini su quella che viene definita l'autostrada che taglia le piramidi. Le piramidi sono quelle di Cheope e Kefren a Giza, vicino al Cairo. Se l'autostrada taglia le piramidi, Al-Sisi approfitta del lockdown, cantieri nel parco archeologico, perché naturalmente questo delle due grandi piramidi di Cheope e Kefren, poi c'è quella un po' più piccola di Micerino, è un parco archeologico. Vi segnalo l'intervista ad Anthony Fauci, che è un immunologo, parte naturalmente della task force voluta da Donald Trump per combattere l'epidemia, messo un po' ai margini perché ha sempre parlato da scienziato e non certo da politico, e sarà uno degli ospiti del Festival della Salute. Lo ha intervistato Daniela Minerva, che scrive di questi temi per La Repubblica. E Fauci dice: ora facciamo i bravi, ma torneremo alla normalità non prima di Natale 2021. I vaccini in arrivo, dice Fauci, avranno un'efficacia al 70-75%, non proteggeranno tutti, ma proteggeranno la maggioranza. Va benissimo così. Il banco di prova per l'Italia è ora. La ripartenza deve essere graduale, perché quello che accade in Francia e Spagna preoccupa. L'intervista è interessantissima, però è importante questo tema dell'efficacia dei vaccini, perché quando saranno disponibili, secondo l'iter previsto, i protocolli previsti, oltre al tema della produzione, perché abbiamo visto c'è un problema di produzione e disponibilità anche per quello anti-influenzale, c'è questo tema dell'efficacia, perché da una parte ci sono devono essere sicuri, cioè bisogna essere sicuri che il vaccino non provochi più danni di quelli dei vantaggi, che è rendere inefficace il coronavirus, ma anche se veramente, oltre a essere, quindi non avere controindicazioni, è effettivamente efficace. E qui Fauci fa questa previsione del 70-75%. Un ritorno sull'altra grande questione politica internazionale, che è quella della normalizzazione dei rapporti tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, la firma di questo che non è tecnicamente corretto chiamare trattato di pace, perché nei fatti Israele non è mai stato in guerra né con gli Emirati Arabi Uniti né con il Bahrain, però non aveva relazioni diplomatiche formali, ora le ha grazie a questo accordo mediato da Donald Trump e dalla Casa Bianca, firmato appunto all'inizio di questa settimana. Francesca Cafferri ci racconta: il re contro il principe, così la pace con Israele divide l'Arabia Saudita. Re Salman, 84 anni, con il figlio ed erede Mohammed bin Salman, 35 anni. Francesca Cafferri racconta: da tempo fra re Ali ci sono divergenze sulla questione palestinese e ora diventano pubbliche. L'erede al trono, Mohammed bin Salman, porta avanti da anni una politica sotterranea di avvicinamento allo Stato ebraico. Tra le molte considerazioni che si sono fatte su questo trattato firmato a Washington, c'è che senza il tacito assenso dell'Arabia Saudita, il Bahrain, ma anche gli Emirati Arabi Uniti, non avrebbero mai potuto fare questo passo. E poi un approfondimento su un'altra questione politica di cui non si trova più traccia sui giornali, sui media, ma in realtà è molto interessante, ed è quella delle rivolte a Bangkok, in Thailandia. Raimondo Bultrini, pagina 18 della Repubblica: assedio al Palazzo Reale, i thailandesi sfidano militari e monarchia. La crisi economica alimenta la rabbia e il leader dei ribelli: non ci fermeranno. Un approfondimento interessante sugli effetti collaterali dell'epidemia in Italia, diciamo che naturalmente è parte della pandemia globale di Covid. A pagina 14 della Stampa, Maurizio Tropeano racconta che l'Osservatorio della Ristorazione Collettiva ha lanciato questo allarme: se si va avanti con lo smart working, a rischio 20.000 addetti delle mense, meno 40% la perdita di fatturato stimata per il 2020. L'anno scorso il giro d'affari era di 6 miliardi, sono 96.000 gli occupati di questo settore ristorazione, il personale femminile è l'82% del totale, ma appunto se si prosegue con lo smart working, quindi poche persone che vanno a lavorare nei luoghi di lavoro, soprattutto quelli che hanno delle mense, la stima è questa: 20.000 persone a rischio tra gli addetti alle mense. Noi ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle pagine della Stampa, vi segnalo un'intervista di Maria Berlinguer a Paola Ferrari, che è la giornalista che negli anni si è specializzata soprattutto in calcio, che oggi torna alla guida di Novantesimo Minuto su Rai 2, dice: faccio questo lavoro da 32 anni con la stessa passione. Il titolo scelto è Non usiamo il corpo come una scorciatoia per gli ascolti, che andrebbe benissimo non fosse che la stessa Paola Ferrari, anche in questa foto che correda l'intervista, mette in mostra molte parti del suo corpo, molta pelle, diciamo. E quindi ci si chiede, cominciamo allora, perché lo avrete notato sicuramente tutti in qualsiasi trasmissione, ma persino nelle rassegne stampa, se la rassegna stampa la fa un uomo, ha giacca, cravatta, se la fa una donna, come minimo ha le braccia scoperte, una bella scollatura, si può essere d'accordo o no. Però certo teorizzare di non usare il corpo come una scorciatoia per gli ascolti e poi continuare a vedere in televisione che in qualsiasi trasmissione è come se il microclima per le donne all'interno dello studio fosse di un tipo e per gli uomini di un altro, se no non si spiega perché le donne possano essere mezze svestite e gli uomini invece siano sempre vestiti di tutto punto. È un tema che, come potete intuire, mi sta particolarmente a cuore. A proposito di donne, dal giorno vi segnalo questo inquietante dato: femminicidi, il conto shock del lockdown. Dall'inizio dell'anno già 62 vittime, l'associazione SOS Stalking aumentate del 15%, con l'isolamento in casa, boom di richieste di aiuto. Da Libero vi segnalo un bell'articolo richiamato in prima pagina di Melania Rizzoli: il dolore incompreso, il male dell'anima è impossibile da curare. Nonostante i progressi della medicina, non esistono né analgesici né antibiotici che guariscono dalla sofferenza interiore. E questo articolo è corredato dall'immagine di un quadro di Edvard Munch, che è un pittore norvegese, si chiama Malinconia, non è il famoso urlo, ma anche questo sicuramente è un'ottima scelta per illustrare appunto questo dolore incompreso che Melania Rizzoli definisce male dell'anima. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo un approfondimento sull'ILVA, altro tema. Ex Ilva, adesso ArcelorMittal, la più grande acciaieria d'Europa, si trova a Taranto, in crisi da decenni, altro tema di cui non si parla, ma la crisi naturalmente continua. Stanno spegnendo l'Ilva, la crisi peggiore del 2012. Francesco Casula, inviato a Taranto del Fatto Quotidiano, racconta: ArcelorMittal a rischio fuga, chiude i nuovi reparti, altri 1000 in cassa integrazione, produzione quasi ferma, incidenti continui. E dalla Verità vi segnalo anche visto che abbiamo detto appunto, ho citato l'intervista al presidente del consorzio dei vini per dire come sia sempre importante cercare di imparare qualcosa, e vi segnalo la rubrica di Massimo Piombo sulla Verità. Massimo Piombo è uno stilista e questa settimana la rubrica si intitola Nella vita non si può mai essere troppo curiosi. È assolutamente vero, forse per uno stilista ancora di più, ma per tutti noi. E poi forse sono affezionata a questa parola anche per il proverbio inglese curiosity kill the cat, che invece suggerisce che essere troppo curiosi può essere pericoloso, ma insomma i gatti sono curiosi per definizione. E a proposito di Covid, un approfondimento dell'Avvenire sul Covid in Amazzonia. Così il popolo dei Tembè, degli indios dell'Amazzonia, ha isolato Bolsonaro e il Covid-19. Nessun contagio tra i nativi del Pará grazie a un lockdown auto-organizzato. È molto interessante questa notizia. Ma passiamo ai supplementi domenicali, abbiamo poco tempo oggi. Cominciamo come sempre dal domenicale dalla domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che inizia con una bellissima citazione di Albert Einstein, che è questa: non ho mai insegnato ai miei allievi, ho solo cercato di metterli nelle condizioni migliori per imparare. Scrive Ravasi, immaginate un vicolo buio in piena notte. In mano avete una candela accesa che si consuma, ma vi permette di procedere. Questo simbolo regge un proverbio turco tradizionale, il cui messaggio è appunto illuminante. Ed è questo: un bravo insegnante è come una candela che si consuma per illuminare la strada degli altri. Questa premessa può illustrare la forte confessione autobiografica del grande Einstein sopracitata, confermata da chi ha avuto la fortuna di seguirne le lezioni all'Institute for Advanced Study di Princeton. Certo, per insegnare bisogna aver prima studiato, approfondito, indagato, ma il vero maestro non distribuisce solo nozioni acquisite, stimola l'alunno ad andare oltre, a ricercare, a spingersi in avanti nell'immenso orizzonte del sapere. Roland Barthes, il noto saggista francese e docente del Collège de France, affermava in piena sintonia con Einstein: «Vi è un'età in cui si insegna ciò che si sa». Ma poi viene un'altra in cui si insegna ciò che non si sa. Questo si chiama cercare. Ma l'argomento della copertina della domenica è un lungo articolo di Umberto Bottazzini, o meglio è l'estratto del libro di Umberto Bottazzini che sarà in libreria dal 24 settembre, dedicato a Pitagora, il padre di tutti i teoremi. Ma chi era Pitagora? Un rebus. Il personaggio non ha lasciato alcun scritto e neppure si sa se ne sia esistito uno, ed esigue sono le notizie pervenute su di lui. Persino il teorema che porta il suo nome era già noto da secoli a babilonesi e cinesi. Sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore, un'altra recensione, questa è proprio una recensione di Gianluigi Simonetti al libro di Franco Arminio pubblicato da Bompiani, La cura dello sguardo, nuova farmacia poetica. Dice, questo è il sottotitolo di questo libro, è La cura dello sguardo, è un libro rappresentativo di una nuova letteratura impegnata. E poi sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore, il ricordo di Stefano Salis di Franco Maria Ricci, scomparso pochi giorni fa, editore, collezionista, bibliofilo, designer, costruttore di labirinti. Al centro della sua ricerca della perfezione è stata però la forma del libro. E poi altro grande intellettuale, Corrado Staiano, anche giornalista, scrittore, compie 90 anni sono sei libri di Corrado Staiano disponibili nel catalogo del Saggiatore, Una voce libera contro mafie e poteri occulti. Questo racconto che appunto rende omaggio a Corrado Staiano è di Raffaele Liucci sulla Domenica del Sole 24 Ore. A proposito di, non di matematica, avendo parlato di Pitagora, ma di fisica, una recensione di Vincenzo Barone al Mondo secondo la fisica di Giama Al-Khalili, un libro di Bollati Boringhieri. Al-Khalili scrive un atto d'amore per una disciplina spesso detestata che ci dice però com'è fatto il mondo per davvero e ci fornisce gli strumenti per comprenderlo. E poi un'ultima segnalazione, anche qui una recensione di Maria Luisa Colledani a un libro di Federica Seneghini pubblicato da Solferino, Giovinette, le calciatrici che sfidarono il duce. La lettura del Corriere della Sera, il supplemento domenicale, come sempre affida la copertina a un artista, Kendall Gears, che in realtà è l'immagine di una scultura. E poi vi segnalo l'unica segnalazione che faccio tempo a farvi da questo numero della Repubblica, è una recensione in realtà di due libri fatta da Anna Chiara Sacchi. Uno si chiama I fili della vita, una storia del mondo attraverso la cruna del lago, e l'altra, l'ultima ricamatrice, di Elena Pigozzi, La storia passa per la cruna di un ago. E appunto da questi due libri impariamo anche quanto appunto i lavori tessili, che quindi anche gli arazzi, che sono vere e proprie opere d'arte, raccontano sulla storia. Era purtroppo l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi per oggi. Un grazie a Peter Bescapè in regia, un grazie a tutti voi, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.